Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Camminati. Mi sto aggirando per Padova e sono qui davanti al Santo, la grande basilica dedicata a Sant'Antonio. Ma la mia attenzione è così adesso attirata da questo straordinario cavallo che è davanti alla basilica. È un cavallo di bronzo, un cavallo rinascimentale, è uno dei capolavori di Donatello, uno dei più grandi artisti del primo 400 italiano. Chi è questo signore a cavallo? Beh, è un famoso condottiero, si chiamava Erasmo da Narni, detto il Gattamelata. Era un condottiero al soldo della Repubblica di Venezia. Padova allora era una città della Repubblica di Venezia, e quando questo signore morì si fece seppellire nella basilica qui accanto, ma volle essere celebrato con un monumento equestre. Ed ecco che Donatello, che si trovava a Padova per realizzare anche i bronzi per l'altar maggiore della basilica, realizza questo capolavoro assoluto. È un capolavoro da primato. Perché? Perché era dal mondo antico che non si vedeva più un cavallo così importante, nel senso che noi conosciamo il Marco Aurelio di Roma, i quattro cavalli di San Marco, che erano, sono stati anche il modello per Donatello, che venivano da Bisanzio ed erano molto antichi, ma nel Rinascimento nessuno si era ancora cimentato nel rifare un monumento equestre così importante. Un'altra caratteristica straordinaria di questo monumento equestre è il fatto che non nasce per essere messo sopra un arco di trionfo e nemmeno dentro una nicchia. È la prima volta che si mette il cavallo in piazza, poi questa idea verrà replicata tantissime volte in Europa soprattutto, e quindi è una specie di prototipo di questo genere. È un, come tutte le statue, ricca di aneddoti. Per esempio, la base è una porta semiaperta e si è sempre creduto che quella fosse la tomba, quindi un cavallo sopra la tomba. In realtà la tomba è, lo sappiamo, nella chiesa. E l'altro aspetto è che questo personaggio, Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, è diventato famoso soprattutto grazie al cavallo, perché in quanto a imprese militari non è che sappiamo molto di quello che abbia fatto, e soprattutto non abbiamo neanche una notizia sulle sue vittorie. Si dice a Padova che il cavallo che noi vediamo è quello che lui usava per scappare davanti al nemico.